Daniele, scusa, ti volevo dire perché non abbiamo parlato della tua vigna un attimo, no? Raccontaci un po' la tua vigna. La mia vigna in realtà sono... La vostra vigna, perché sì, loro sono due fratelli. Due fratelli, sì. La nostra vigna in realtà non è una vigna, sono tante vigne piccole, come diceva anche Eris, non sono un corpo unico, sono molto lontane dall'esserlo. E sono vigne che sono state sottratte ad altri destini, perché abbiamo iniziato ad aiutare una persona anziana in modo tale che non venissero abbandonati questi vigneti. E che è la stessa persona che poi ha dato il nome... Il nome al vino, sì. Il vino si chiama Juan perché il signore si chiamava Juan. Ed erano vigneti piccoli, vigneti da centinaia di metri quadri l'uno o poche migliaia di metri quadri ciascuno, che continuare a coltivare permette di non... far sparire un'anima contadina che era almeno in grande declino nel nostro territorio. Cioè, da noi la vigna combatte con le villette, e combatte a volte con i boschi, nel senso che non c'è più una compresenza produttiva e felice fra i boschi e le vigne, ma ci sono i boschi che stanno riprendendosi gli spazi che una volta erano coltivati. Il nostro paesaggio è lontanissimo da quello eccessivamente antropizzato dalla langa, è un paesaggio che sta perdendo il suo equilibrio fra parte coltivata e parte non vissuta dall'uomo, perché la costruzione continua nei fondovalle ha portato alla collina a diventare semplicemente una zona residenziale. Quindi la collina è semplicemente il posto in alto dove le famiglie vogliono vivere meglio. Quindi i terreni costano molto perché devono diventare villette o villette con la piscina, e quindi gli anziani proprietari, se nel momento in cui muoiono, i loro eredi non sono più interessati a lasciare un vigneto come tale, non vogliono che rimanga un vigneto, preferiscono vendere il terreno a un prezzo più alto sperando che possa diventare edificabile. E quindi per noi è un piccolo tentativo di tutela, cercare di mantenere qualche appezzamento, ma siamo davvero in mezzo alle case. Sono vigne come a volte si vede nella costiera amalfitana, sono vigne di collina che stanno con 2 metri da una strada, 5 metri da una casa. Bisogna fare attenzione a fare i trattamenti perché rischi di dare il verderame al bucato steso da una vicina. Sono cose paradossali apparentemente, però è normale in un territorio che non aveva più una vocazione agricola. Adesso, stante la grandissima crisi del settore industriale del biellese, che era famosa per il tessile, in tanti stanno riscoprendo l'agricoltura, ma è un procedimento che si è avviato non più di 10 anni fa, quindi stiamo tornando a fare vino in fretta e furia perché non sapremo altrimenti come mangiare, fra virgolette, perché sì, è un territorio che è in una crisi... un'attività come un'altra. Sì, un'attività come un'altra, e molti hanno cominciato sperando sia redditizia, è molto difficile che lo sia, non lo sarà mai come una fabbrica, perché sappiamo che funziona in un altro modo. Tu sei, non lo so se sei affezionato in particolare a una porzione di queste vigne sparse appunto tra le case, piuttosto sicuramente avrai, diciamo, un tuo luogo d'elezione. In questo tuo luogo d'elezione, perché è sempre difficile, no, immaginarsi... Magari tutti passando più o meno abbiamo visto delle vigne, vabbè, chi ha avuto la fortuna magari anche di camminarle, di entrarci dentro, però tu sei in questa vigna che adesso appunto fatico anche un po' a immaginarmi in mezzo magari a qualche casa, qualche mezza piscina. Tu tipo, quali sono i profumi, i rumori che senti magari di questa stagione? Allora, questa è una stagione strana, perché è la vera stagione della pausa per chi fa vino. Alla fine, almeno io e mio fratello andiamo a camminare nelle vigne giusto quasi per vedere come stanno, no? Per vedere quello che abbiamo piantato che non è vite nei ciglioni, eccetera. Ma vi regalano eccetera. Un po' di silenzio questi sì, posti? No, assolutamente, perché poi alla Paola, fine a te, sono... quando cammini in mezzo, come... Cioè, senti dei rumori, delle cose, dei profumi, qualcosa? Assolutamente sì. Da noi è tutto coltivato, al contrario che da voi. Cioè, oltre noi ci sono altre aziende intorno a noi, quindi è tutto tra vigne, uliveti, boschi, e ci stanno le case una qua e una là. Io non sono mai stata in casa del mio vicino perché un po' non ci abbiamo tempo, né noi né lui. È un po', c'è proprio una riservatezza di agricoltori che vivono in casa loro e che non mettono il naso nelle faccende altrui. Sì, insomma, c'è un po' questa cosa. E poi, cioè, i profumi sono la vita dei profumi, cioè non si può nemmeno, non si fa più differenza fra un profumo e l'altro, cioè le stagioni hanno un odore, questa è la cosa, che tu esci quando c'è la nebbia e senti un odore acre un po' pesante, poi si alza la nebbia e cominciano a evaporare tutti i profumi della terra che si scalda, e quando io mi abbasso anche solo per raccogliere 5 centesimi che mi sono caduti magari lì per terra, viene su un profumo di terra che non è un'esperienza, non si può dire che cosa. Poi, come diceva lui, secondo me ogni terra ha il suo profumo, ogni luogo. Per esempio, da noi quando la vigna è in fiore c'è un odore di miele, è una cosa incredibile, cioè tu t'accorgi che sta andando in fiore prima di vederla dal profumo che si spande. Stessa cosa per quanto riguarda i frutteti, cioè io credo che sia un privilegio vivere queste cose, sia per chi le ha scelte come noi o come loro forse, sia per chi magari c'è nato da sempre e se lo può permettere di rimanerci. Lo considero un privilegio nonostante la grande fatica, l'economia che non devi lavorare perché ti piace, punto. Fare i conti non fa parte dei contadini. Ecco, contadini i conti non li sanno fare ed è bene che non li facciano. No, si fanno anche fare per quello. Perché come la da me, per esempio, altro che terra edificabile, perché è vincolata, no? Sul prosecco superiore di origine controllata e garantita. Noi per esempio il terreno costa di più il vigneto che non quello edificabile. Si parla ancora quando era il periodo delle vecchie lire, un ettaro è stato venduto a 1 miliardo di lire. E son già 12 anni. Sì, queste sono un po' sì. Le storie anche. Vai, finisci. Dopo, come dicevo, per esempio là da noi, vabbè, a parte i paesi, in mezzo ai vigneti o anche in mezzo su per i boschi, ci sono malghe o ci sono in mezzo ai vigneti, ci sono starlettine vecchie fatte su a mano di sasso, dove d'estate venivano portate le mucche. O gli asini, per capirci, o le capre, in maniera tale da poter rigenerare la terra, si dava da mangiare l'erba e dopo si utilizzava il letame, per capirsi, materia organica. Beh, bene.